Linee d'ombra di Matteo Caccia. Sono intervenuta con la manovra e ho detto la faccio un po' più forte, la faccio forte perché altrimenti mi cade qui. Ho capito subito, come un automa mi avvicino, lei ha gli occhi spalancati, le mani alla gola, le chiedo se va tutto bene, fanno con la testa. Storie di quarantena, manovre antisoffocamento e falsari in una puntata che si intitola Chi salva una vita, salva il mondo intero. Abbiamo scritto una lettera, cercando di spiegare i fatti, nel caso lei venisse arrestato. L'hanno firmata tutti gli operai. È in ebraico, un verso del Talmud dice chiunque salva una vita, salva il mondo intero. Avrei potuto farne uscire altri. Avrei potuto salvarne altri. Non lo so se soltanto io avrei potuto salvarne altri. Oscar, ci sono 1100 persone che sono in vita grazie a lei. Le guardi? Se avessi avuto più denaro. Ho buttato via tanto di quel denaro. Se soltanto io. Ci saranno altre generazioni per quello che lei ha fatto. Oscar Schindler è stato un uomo, è stato un imprenditore tedesco che ha salvato oltre 1000 ebrei, questi diciamo risaputo, ma probabilmente sono molti molti di più, giusto tra i giusti. L'abbiamo visto quel film, se non l'abbiamo visto vediamolo immediatamente, di Steven Spielberg di ormai una ventina d'anni fa, che si intitolava Schindler List. La voce era quella del doppiatore di Liam Neeson, che parlava proprio di un pezzo del Talmud. Il Talmud è, insieme all'Antico Testamento, il testo fondamentale dell'ebraismo, su cui si basa tutta la tradizione morale e giuridica successiva appunto alla sua redazione. Si parla di un testo del III-V secolo avanti Cristo, che in un passaggio dice questa frase: chi salva una vita salva il mondo intero. Abbiamo intitolato così questa puntata. Questa è una puntata che racconterà, la linea d'ombra che racconterà è proprio quella, è quella che è molto sottile tra la vita e la morte, e salvare una vita e salvare il mondo intero in alcuni casi è proprio evidente, è un atto fisico. E lo racconta benissimo la storia di Carla, che grazie a una manovra che tutti dovremmo saper fare, che è la manovra di Heimlich, riesce a liberare una persona che banalmente sta mangiando al ristorante e le va di traverso un boccone. E sono davvero sempre emozionanti queste storie. Non è la prima che ci arriva di storie che ha a che fare con il salvare una vita in questo modo, grazie a un massaggio cardiaco o grazie a una manovra come questa per intervenire e salvare una persona. Ce la racconterà lei nei dettagli, poi scopriremo anche dove si può imparare a farla, sentiremo una persona che tiene dei corsi per farla. E poi racconteremo invece, tornando un po' in quel mondo legato alla Shoah e poi agli anni successivi, parleremo di un falsario che grazie alla sua capacità di falsificare documenti salverà decine, centinaia di vite. Ma la prima storia con cui apriamo è un'altra storia ancora, una storia che arriva davvero da oggi, da questa mattina. Mi è arrivata questa mattina questa storia, e a differenza di come facciamo di solito, che abbiamo un lungo elenco di storie, le mettiamo insieme con calma, questa è una storia che parla di adesso, parla di questo momento, perché alla fine le persone che salvano una vita sono anche le persone in questa situazione di emergenza. Ne parliamo tutti i giorni, ne sentiamo parlare tutti i giorni di questo virus. Fanno probabilmente il sacrificio più alto, che è quello della quarantena. Ci sono delle persone che si trovano in questa zona, nella zona non molto lontana da Milano, che è caratterizzata dalla città di Codogno, la città che tutti si ricordano, che è chiamata la zona rossa, e in qualche modo loro stando chiusi in quell'area stanno facendo, anche se in maniera molto sottile, stanno facendo quello che ha a che fare con il titolo di questa puntata, cioè stanno cercando di salvare la loro vita e la vita delle persone che stanno loro intorno o che stanno fuori dalla zona rossa, con un enorme sacrificio. Qualche giorno fa, io scanalando su Twitter, ho trovato dei tweet di questa ragazza che tra l'altro aveva già fatto anche un passaggio televisivo, quindi insomma aveva una certa riconoscibilità, quella che viene dalla televisione, che si chiama Jules, con 3G e 4S, non è facilissimo da imparare, che è proprio una giovane ragazza di nemmeno 18 anni che vive a Codogno, e su Twitter raccontava giorno dopo giorno che cosa accadeva attraverso un tweet brevissimo nella sua vita. Io l'ho contattato e le ho detto: Giulia, ti va di raccontarci qual è la giornata tipo di una persona che vive nella zona rossa, o meglio qual è la tua giornata tipo? E lei ce l'ha mandata, e si intitola proprio così: La mia giornata tipo nella zona rossa. sono Giulia. Nelle ultime due settimane è meglio conosciuta su Twitter come Jules, o più semplicemente l'influencer di Codogno. Abito appunto nella zona rossa, più precisamente nel paese maggiormente colpito dal coronavirus. E dal pomeriggio di venerdì 21 febbraio sono in quarantena. E come ho sempre fatto per tutto, ho iniziato a raccontare la mia giornata sul mio account Twitter. Dal giorno dopo, sabato 22, giorno tra l'altro del mio 17esimo compleanno, nessun mio programma è andato secondo i piani. Non c'è stata la breve gita a Milano per andare a trovare un'amica, non c'è stata la festa con i miei compagni di classe, non ci sono stati regali da scartare, né tantomeno candeline da soffiare. Da quel giorno invece è iniziata ufficialmente la quarantena, fino al giorno prima a me totalmente sconosciuta, e tutte le giornate sono ormai monotone e tutte uguali tra loro. Mi sveglio la mattina e le prime cose che faccio sono controllare i nuovi messaggi, le notifiche dei vari social e leggere le notizie uscite durante la notte. Dopodiché scendo in cucina per fare colazione e preparo il materiale necessario per le lezioni online in programma quella mattina. Io e i miei compagni di classe infatti ci siamo organizzati in questo modo con i nostri professori, in preparazione delle verifiche e delle interrogazioni. Abbiamo circa una o due ore di didattica digitale al giorno. Finita la lezione, chiamo i miei amici e ci teniamo compagnia per telefono. Discutiamo dei compiti che ci assegnano, che a volte svolgiamo insieme. Ci mandiamo dei meme e guardiamo dei video divertenti. Facciamo di tutto per distrarci e non pensare alla situazione in cui siamo stati costretti a vivere, anche se spesso condividiamo informazioni che sentiamo ai telegiornali o che leggiamo su internet e ci scambiamo idee, pensieri. Dopo pranzo capita che io passi il pomeriggio fuori casa con le mie amiche, sempre per distrarci e per provare a sconfiggere la noia. Andiamo in campagna con le bici, a piedi, ci divertiamo. Proviamo a vivere come se niente fosse, anche se ci risulta abbastanza difficile. Dopo qualche ora passata insieme torniamo a casa e cala quella lieve tristezza che mi accompagna da ormai 10 giorni. Prima di cena di solito condivido alcuni momenti della mia giornata su Twitter e poi leggo alcuni messaggi che ricevo quotidianamente, il che mi tiene abbastanza impegnata. Dopo cena invece studio oppure mi porto avanti con gli esercizi che devo consegnare nei giorni successivi. Sul tardi richiamo i miei amici ed è diventata ormai tradizione leggere una storia o un breve libro che troviamo su internet e ne commentiamo ogni cosa sempre insieme. Crediamo sia un ottimo modo per abbattere la noia. Dopodiché, letti alcuni capitoli con loro, ascolto la musica e verso mezzanotte spengo la luce. Questa credo sia la parte più difficile della giornata, perché mi ritrovo completamente da sola, con i miei dubbi e le mie paure. I do my makeup in somebody else's car. We order different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. Sometimes I wake up in a different bedroom. Ringrazio molto Giulia per averci mandato questa storia che racconta come si vive, come vive una ragazza di 17 anni, un isolamento totale, assoluto, una cosa che nessuno di noi, men che meno lei, avrebbe probabilmente pensato di dover vivere, e invece da un giorno all'altro, letteralmente da due giorni all'altro, se si dice da due giorni all'altro, dopo insomma 48 ore dalla notizia del primo malato, tutta quanto il suo paese e i paesi vicini sono trovati a vivere all'interno di una zona rossa. Grazie ancora, se volete seguirla su Twitter per sentire cosa racconta, lei si chiama Jules con 3G e 4S, ma se passate tramite il nostro profilo Twitter Linee d'Ombra trovate il suo nome con più facilità e potete continuare a seguirla. Si intitola Chi salva una vita salva il mondo intero, la puntata di oggi, e ora vi raccontiamo una seconda storia. È la storia di Carla che letteralmente, manualmente e anche fisicamente e probabilmente con una certa fatica salva letteralmente una vita. 30 novembre 2019, pomeriggio. Un'amica mi invita ad un bellissimo concerto natalizio in una chiesa sul lago di Como. Giornata splendida, cielo terso, azzurro, un po' freddino. Angela insiste affinché rimanga anche a cena in un meraviglioso ristorante a Cernobbio, addobbato per le feste, insomma un'atmosfera incantevole. Sono con un bel gruppo di appassionati di musica, facenti parte di un sciccoso circolo, persone eleganti, che già conoscevo un pochino di vista per aver partecipato ad altri eventi organizzati proprio da loro. Sono al tavolo con sette signore, tutte più grandi di me. Angela siede davanti, da un lato una signora che poi mi ha raccontato essere stata una professoressa di italiano in pensione. Dall'altro Mariangela, anche lei una distinta professoressa di tecnica in pensione da qualche anno. Persone di una cultura infinita. Io, ammetto, mi sento un po' fuori luogo. Ho studiato solo ragioneria, ho solo un diploma di maturità, e poi in italiano era una schiappa. Nella mia vita ho sempre dovuto stare molto attenta a come coniugare i congiuntivi per non fare brutta figura. Insomma, a un certo punto, dal tavolo a fianco, una donna si alza di scatto, comincia a battere sulla schiena di un'amica come per aiutarla a tossire. Quante volte abbiamo visto questa scena? Ho pensato, le è andato di traverso un boccone, finito là. E invece no, la donna in questione si alza, porta le mani alla gola, cammina intorno, gira, in cerca d'aria. Io capisco subito, come un automa mi avvicino, lei ha gli occhi spalancati, le mani alla gola, le chiedo se va tutto bene, mi fa segno di no con la testa, chiedo, ti passa dell'aria? Lei fa ancora di no con la testa. In quel momento mi dico, o intervengo, o tra un attimo muore. Era la prima volta che mi capitava di vedere dal vivo, perché io ho fatto diversi anni in Croce Rossa, anche in ambulanza, al 118, così, ma dal vivo era la prima volta, quindi ho detto se non intervengo muore, ecco. Eravamo lì al ristorante, tutti ci guardavano, ma nessun altro diciamo, è intervenuto, nel senso che eravamo un po' tutti esterrefatti. Distinto, ad alta voce, prima ordino di chiamare un medico. Poi mi posiziono dietro a questa donna, le do alcune pacche forti interscapolari, ma niente, non si muove nulla. Allora, incurante di tutte quelle persone che ci stanno guardando, da dietro la abbraccio. L'abbraccio come ho visto fare durante i corsi di primo soccorso in 7 anni di Croce Rossa. Una mia mano con il pugno chiuso, l'altra afferra il pugno e comincia a premere forte tra lo sterno e l'ombelico. Due rapide e profonde spinte verso l'alto. E lei si libera. Dalla gola esce quel maledetto pezzo di carne, il boccone intero, che, mi disse poi, aveva ingoiato per rispondere al marito che le aveva fatto una domanda. Come se nulla fosse, ritorno al mio posto. Mi siedo. Ora sto morendo io. Tremo come una foglia. E non smetto di tremare. È andata bene, per fortuna, questa volta. Quella di Heimlich è una manovra semplice da imparare, che può salvare una vita. Scrolling up and down. E Carla, come vi dicevo, ha letteralmente salvato una vita e l'ha fatto con una manovra. Più tardi sentiremo una persona che tiene corsi di primo soccorso e magari ce la facciamo spiegare all'ascolto in radio come si fa, però credo che abbia più senso ovviamente seguire dei corsi. Pronto, ciao Carla, buongiorno. Ciao, ciao Matteo. Senti, tu sei una persona diversa dopo quello che hai fatto? Allora no, nel senso no, però è stato un episodio che mi ha un po' segnato, ecco, perché cioè, è una cosa a cui ripensi? Sì, non spesso, però anche quando vado in giro guardo la gente, magari può succedere in qualsiasi momento, insomma, ecco. A questo proposito, tu avevi fatto proprio il corso vero e proprio o avevi semplicemente assistito per gli anni che hai fatto in Croce Rossa? Sì, ho fatto diversi corsi, perché poi in Croce Rossa si fanno anche degli aggiornamenti così, però un conto è vedere, guardare o farlo dal manichino, è un conto dal vivo con una persona che magari non conosci, che insomma gli tocchi lo stomaco, spingi dentro, insomma, e poi davanti alla gente soprattutto, non... Questo è un aspetto che mi incuriosiva molto, perché tu a un certo punto dici proprio nella tua storia: a quel punto, incurante degli altri che ci guardano, faccio quello che devo fare. Perché c'è una... Cosa accade? C'è una forma di imbarazzo? Allora, sì, un po', io sono un po' timida, sì. Poi però comunque sì, mi sono alzata e ti rendi conto che tutti ti guardano, perché si erano tutti seduti. Però scusami Carla, tutti avevano capito la gravità della situazione, giusto? Non lo so, però guardavano questa signora che girava in cerca d'aria, proprio diciamo la posizione, non so, con le mani alla gola, girava... occhi spalancanti, proprio anche durante i corsi ti dicono cerca l'aria e ti rendi conto che era proprio così come avevo visto fare nel corso, insomma, ecco. Quindi probabilmente la gente ti guarda perché a quel punto, nel momento in cui su tutte le persone che sono presenti c'è qualcuno che si prende la responsabilità di farlo, come dire, un po' è merito, fare, un po' sono problemi suoi a quel punto. Sì. È stato un po' scioccante, ecco. Comunque mi sono avvicinata. Quanto sarà durato più o meno, Carla? Pochi ecco, secondi? Ecco, diciamo 10-20 secondi, magari poco, ma per me e anche per lei è un'eternità. Tu sei riuscita a rimanere lucida? Ecco, sì, questo sì, lucida, ho detto, diciamo, con calma e sangue freddo, ecco, questo sì, poi sono morta, perché... E infatti, poi guarda, è il dopo che mi interessa, nel senso che immagino che l'adrenalina quando scenda lasci un po' di shock, giusto? Sì, sì, assolutamente, mi tremavano le gambe, sono dovuta subito sono andata a sedere, ecco, poi sono tornata da lei un po' qualche minuto dopo per chiedere se stava bene, se era tutto a posto, e mi ha detto di sì, mi ha ringraziato, però... A quel momento lì ho visto che la manovra è andata a buon fine, ho detto per sfortuna. Tattica. Perché scusami Carla, non è venuta lei a ringraziarti? No, lei era seduta, anche lei sconvolta, infatti mi ha detto che è stata sconvolta tutta la sera, ma anche per ulteriori due giorni, non ha dormito per due notti, mi ha detto così poi successivamente quando si siamo sentite. Esatto, perché poi l'hai risentita? L'ho risentita, sì, perché ci siamo sentite al telefono, perché prima mi ha mandato un bigliettino ringraziandomi, mi ha detto grazie, se sono viva lo devo a lei, poi l'ho richiamata e appunto mi ha detto che mi ha ringraziato, mi ha detto che per due giorni non ha dormito, per due notti. Immagino. Senti, un dettaglio che mi fa sorridere è che poi lei ti ha detto che si era strozzata per rispondere a una domanda del marito. Lo dico perché, diciamo, mia madre da questa storia ne vincerebbe una morale, che è mio marito parla troppo, continua a parlare, a farmi domande. Per cui sicuramente in questo caso sarebbe colpa di mio papà, senza dubbio. Il marito come ha reagito? No, il marito da morire da ridere dopo, anche se perché mi ha detto: signorina, la prossima volta faccia finta di niente. Ecco. Vabbè, sì, ho riso, però anch'io lì ho detto: ma non era la battuta. No, vabbè, ha stemperato un po' la tensione, sì, diciamo, sì, così. Sì. Carla, però ti ringrazio davvero tanto per averci raccontato la storia e per averci dato la sponda per più tardi, tra pochissimo torniamo per raccontare che insomma questo corso dovremmo farlo tutti quanti, forse bisognerebbe farlo nelle scuole. Grazie davvero ancora Carla, grazie, bocca al lupo per tutto. Buona vita a tutti. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Started off so well. Said we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I loved you. How I cried. E ora diamo la linea alle borse in diretta e poi torniamo qui per parlare ancora un pochettino della manovra di Heimlich. Linee d'ombra. Chi salva una vita salva il mondo intero, l'abbiamo già ripetuto un paio di volte il titolo di questa puntata. Vi abbiamo raccontato la storia di una ragazza che insomma quotidianamente vive all'interno della zona rossa nella quarantena di Codogno, e vi abbiamo raccontato la storia di Carla che invece ha salvato una persona facendole una manovra di Heimlich, che è quella di disostruzione per qualcosa che era andato di traverso. E noi abbiamo dato fondo al grande bacino dei nostri ascoltatori, che perché Paolo Guarnaschelli è stato, io l'ho conosciuto perché era un ascoltatore di Voi Siete Qui innanzitutto e poi dei miei programmi in generale, e lui è stato di fatto per anni, ha lavorato nella dirigenza di multinazionali nel settore delle risorse umane e delle finance, e ora invece è un volontario di Salvagente Italia ed è un istruttore delle varie manovre di insomma salvavita. Lui ce lo spiegherà meglio. Pronto? Ciao Paolo, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno. Senti, esattamente, tu sei istruttore BLSD sì. E poi un sacco di altre cose, giusto? Sì, sono varie qualifiche che ho preso in questi anni per quando ho deciso di cambiare vita, diciamo orientarmi verso la formazione nell'ambito di un soccorso. BLSD significa Basic Life Support and Defibrillation, quindi corsi... Ti sentiamo, guarda Paolo, ti sentiamo un po' male, se magari riesci a metterti in un punto in cui prende meglio, siamo tutti più contenti. Senti, esattamente, Salvagente Italia che cosa fa? Salvagente Italia è un'associazione no profit che è orientata verso la sicurezza pediatrica in questo caso, quindi corsi di disostruzione, prevenzione incendi, primo soccorso pediatrico. Con i corsi che fa finanzia dei progetti in Italia ma anche in Africa, diciamo sempre destinati alla sicurezza dei bambini e alla diffusione della cultura del soccorso. Per capirci Paolo, la manovra che la signora della storia precedente fa all'altra signora salvandole la vita, no? La manovra di Heimlich, in quante ore la si impara durante un corso? Ma guarda, basta un paio di ore di corso, cioè diciamo una parte precedente un po' di sensibilizzazione a livello culturale sulla prevenzione, perché in Italia purtroppo abbiamo scarsissima percezione di essere in generale. Uh-huh. Una parte fondamentale su come fare una chiamata di emergenza, perché non è una cosa così scontata, partendo dal fatto che molte persone non sanno neanche che numero fare nel momento in cui hanno bisogno di un'ambulanza. E poi ricordiamolo, parte... qual è il numero da fare quando si ha bisogno di un'ambulanza? Allora, in generale la risposta esatta sarebbe cioè il numero unico delle emergenze è l'112. Non è attivo in tutta Italia, però diciamo qua in Lombardia, in Piemonte, in altre regioni del nord Italia, Roma è già attivo, quindi è il numero da utilizzare per qualsiasi tipo di emergenza. Certo, che in realtà adesso sarà probabilmente sovraccarico, perché è il numero che tutte le persone chiamano per avere un controllo nel caso in cui abbiano i sintomi del virus, quindi insomma diciamo in una situazione normale giustamente è il 112, è l'112, se no altrimenti uno si fa un corso, giusto? Dove trova i dettagli per poter fare un corso come questo? Ma allora guarda, è molto facile, intanto Carla ha fatto un corso in Croce Rossa, che Croce Rossa italiana ne fa, sì. Salvagente Italia, diciamo dopo la Croce Rossa, il secondo ente di formazione in Italia è proprio sulla disostruzione, e quindi basta andare sul sito di salvagenteitalia.org e si trovano, un po' in tutta Italia. Okay. Paolo, invece per caso voi avete, sarà appunto che raccontiamo storie e quelle ci incuriosiscono sempre molto, avete dei riscontri di quello che accade dopo che una persona ha salvato la vita di qualcuno? Se quelle vite rimangono vicine, se non si vedono più, se addirittura chi vi è stato salvato sparisce e non nemmeno diciamo fa presente il proprio ringraziamento nei confronti del salvatore? Avete qualche storia, qualche racconto? Guarda, nella maggioranza dei casi si tratta, siccome la gente fa corsi destinati principalmente ai bambini, quindi spesso sono i genitori o i nonni o le babysitter, okay, che lavora in un asilo, quindi diciamo lì il legame viene mantenuto chiaramente, però sicuramente ci sono dei casi in cui qualcuno è intervenuto anonimamente, poi si è eclissato e non ha lasciato più nulla. Tra l'altro, a questo proposito, proprio con Anita Panizza ricordavamo questo libro di Chuck Palahniuk che si intitola Soffocare, che si basa proprio in maniera distorta alla Palahniuk, ovviamente l'autore di Fight Club, quindi parliamo, capiamo di cosa stiamo parlando, di un uomo che finge di soffocare al ristorante e le persone che lo salvano gli saranno vicine per la vita e lo aiuteranno addirittura a vivere per tutta la vita. Se vi interessa, se avete tempo, Soffocare, pubblicato in Italia da Mondadori. Paolo, ti ringrazio moltissimo. Se volete sapere qualcosa di più, andate su Google, cercate Salvagente Italia. Grazie ancora, a presto. Grazie. Ciao Paolo. Ciao, ciao, ciao. Un falsario salvare le vite? Certo che sì, lo può fare se appunto ha a che fare con la storia che vi stiamo raccontando, perché di solito il falsario è accompagnato da una connotazione negativa. Il falsario si immagina appunto falsifichi delle monete o dei quadri, oppure sia un ricettatore o un mercenario, però non tutti i falsari sono della stessa risma. In questa puntata la seconda storia è proprio quella di Adolfo Kaminski, uno dei più grandi falsari del Novecento, che è stata raccontata proprio da sua figlia durante una TED Conference. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Sono la figlia di un falsario, ma l'ho saputo solo da grande. Sono nata in Algeria. Là da bambina mi piaceva ascoltare i discorsi dei grandi. Sentivo dire che mio padre era un mujahid, cioè un combattente. E poi più avanti, quando siamo venuti a vivere in Francia, sentivo un sacco di cose sulla vita che aveva fatto mio padre. Sentivo soprattutto che aveva fatto la Seconda Guerra Mondiale, che aveva fatto la guerra d'Algeria, e nella mia testa mi dicevo: fare la guerra vuol dire essere un soldato. E conoscendo mio padre, che non faceva altro che dire che era pacifista e non violento, non riuscivo proprio ad immaginarmelo con un fucile ed un elmetto. E in effetti ero parecchio fuori strada. Un giorno, molti anni dopo, a casa, vedo un foglio ufficiale dell'esercito francese in cui si ringrazia mio padre per il lavoro che aveva svolto per conto dei servizi segreti. E lì, tutto ad un tratto, mi sono detta: wow, mio padre è un agente segreto. Gli ho chiesto spiegazioni, ma non ha avuto risposta. Sono passati molti anni, nel frattempo sono diventata mamma, lui ha compiuto 77 anni e improvvisamente ho avuto davvero paura. Ho avuto paura che se ne andasse e che si portasse via tutti i suoi segreti. Per fortuna però a quel punto sono riuscita a convincerlo a raccontarmi la sua vita. Mio padre nasce in Argentina, da genitori di origini russe. Tutta la famiglia è venuta a vivere in Francia attorno agli anni 30. I suoi genitori erano ebrei, russi e soprattutto erano molto poveri. Dunque, all'età di 14 anni, mio padre doveva lavorare. E con il suo unico diploma, il certificato di scuola elementare, si è ritrovato a lavorare in una tintoria. Ed è lì che ha scoperto la magia della chimica dei colori. In quel periodo c'era la guerra e sua madre è stata assassinata quando lui aveva 15 anni. Per superare la sua perdita, papà si è buttato anima e corpo nella chimica. La guerra però non si ferma. tutta la sua famiglia viene arrestata e portata in un campo di concentramento. Riescono a scappare in extremis grazie ai loro documenti argentini, ma sui loro documenti c'è scritto che sono ebrei. Sono salvi, sì, ma sono in pericolo. È stato suo padre, mio nonno, a mandarlo in cerca di documenti falsi. Al tempo i documenti erano cartonati, compilati a mano, e vi figurava la professione. Così, quando il falsario della resistenza chiede a mio padre quale professione segnare sul suo documento da falsificare, lui gli risponde «tintore». D'un tratto l'uomo si dimostra molto interessato. Gli spiega che tutta la resistenza ha un enorme problema. Nessuno riesce a cancellare un inchiostro detto indelebile, l'inchiostro blu Waterman. Mio padre risponde senza alcuna esitazione che sa perfettamente come cancellarlo. Ovviamente l'uomo rimane molto impressionato da questo ragazzino di 17 anni, così tanto che lo recluta all'istante. Dal suo arrivo al laboratorio, benché sia il più giovane, affronta subito un enorme problema. Fino ad allora ci si accontentava di falsificare documenti già esistenti, ma per soddisfare la richiesta era necessario fabbricarne di nuovi, del tutto falsi. Lui lancia la stampa, la fotoincisione, si mette a riprodurre timbri, ad inventare ogni sorta di cose, inventa anche una centrifuga con una ruota di bicicletta. In un'ora arriva a fabbricare 30 documenti falsi, dunque ogni ora di lavoro equivaleva alla salvezza di 30 persone. Rimanete lì, sentiamo le strade in diretta, poi torniamo e continuiamo a raccontare la storia di Adolfo. Linee d'ombra. Vi stiamo raccontando la storia di Adolfo Kaminski, raccontata dalla figlia, uno dei più grandi falsari della storia, che ha salvato un sacco di vite. Questo senso di responsabilità per la vita degli altri, a 17 anni appena, se lo porta dietro per tutta la sua esistenza, ed è questo che forse spiega come per 30 anni abbia continuato a fare documenti falsi e a prezzo di qualsiasi sacrificio. Vorrei ora raccontare proprio di quello, dei sacrifici, perché ce ne sono stati parecchi. Ci sono stati ovviamente sacrifici economici. Ha sempre rifiutato di farsi pagare mio padre. Farsi pagare per lui voleva dire essere un mercenario, perché se accettava di farsi pagare non avrebbe più potuto dire sì o no a seconda che la causa gli sembrasse giusta o meno. E così è stato fotografo di giorno e falsario di notte per 30 anni e sempre senza il becco di un quattrino. Poi ci sono stati sacrifici sentimentali. Come vivere con una donna portandosi tutti quei segreti? Come spiegarle ciò che si va a fare in laboratorio ogni notte? Dopo la liberazione ha fatto documenti falsi per permettere agli ebrei, scampati ai campi di concentramento, di emigrare in Palestina, prima della creazione dello Stato di Israele. E poi, dato che era un anticolonialista convinto, ha fatto documenti falsi per gli algerini durante la guerra franco-algerina. Dopo la guerra d'Algeria il suo nome è cominciato a circolare in seno ai movimenti di resistenza internazionali. Il mondo intero è venuto a bussare alla sua porta. In Africa c'erano paesi che lottavano per l'indipendenza: la Guinea, la Guinea-Bissau, l'Angola, il partito anti-apartheid di Nelson Mandela in Sudafrica. E poi l'America Latina. Mio padre corse in aiuto dei resistenti alle dittature dell'isola di Santo Domingo, di Haiti, e poi è stata la volta di Brasile, Argentina, Salvador, Nicaragua. E poi la guerra in Vietnam. Mio padre faceva documenti falsi per i disertori americani che non volevano usare le armi contro i vietnamiti. E poi l'Europa, che non era stata risparmiata dalle dittature. Mio padre faceva i documenti falsi per i dissidenti di Franco in Spagna e contro Salazar in Portogallo, e anche contro la dittatura dei colonnelli in Grecia. Gli ho domandato un giorno se, considerati i sacrifici che ha dovuto fare, avesse mai avuto rimpianti. Mi ha detto di no, mi ha detto che ad ogni modo non sarebbe stato capace di guardare o di subire ingiustizie senza fare qualcosa, e che era persuaso, e che è tuttora convinto, che un altro mondo è possibile, un mondo dove più nessuno, mai, avrà bisogno di un falsario. It's hard to take, but I can't turn away. So many feelings are just like yesterday. What a world, what a world. I'm not alone, this I know. So many people all go, go, go, go. What a world. La storia che vi abbiamo appena raccontato, quello di Adolfo Kaminski, è una storia che abbiamo visto e ascoltato ad una TED Conference, proprio raccontata dalla figlia stessa. È una storia molto più lunga e anche molto più complessa, se avete voglia la potete trovare da quelle parti. Intanto al 349-238-6666 ci è arrivato un messaggio a proposito di salvare le vite attraverso delle manovre come quella di Heimlich, un messaggio di un padre che dice: ciao, a me è capitato con mio figlio, aveva un anno, un pezzetto di melone lo ha aspirato ed è rimasto in gola, il tempo era interminabile, fortunatamente c'era un dottore che l'ha aiutato e gli ha detto come fare. Lui dice: insomma, non so come, non so dove ho trovato la forza per farlo, chissà dove l'ho trovata. Tutto è a posto, ora ha 19 anni e sta bene, ciao da Cami. Quindi, per capirci, una cosa che era successa più di 19 anni fa, eppure segna in tutti i modi le vite delle persone. Andiamo verso la fine di questa puntata e, come sempre facciamo, andiamo verso la fine, anche ahimè, questa settimana, della storia seriale che Mauro Pescio ha raccolto. È la storia di una giovane ragazza che si trova coinvolta in una sparatoria in una scuola in Florida. Lei è di origine italiana, anche se parla solo inglese, infatti in queste puntate l'avete sentita tradotta, si sentiva la voce sua, di Sheryl, ma era per lo più tradotta dalla mia voce. E è il padre di Sheryl, Giacomo, ha raccontato moltissimo di questa storia. A questo punto, ormai, quando mancano 3 episodi alla fine di questa storia, noi siamo arrivati a capire com'è la situazione oggi. Sono passati 2 anni, perché era il febbraio del 2018, 7 persone erano morte, 14 persone sono state uccise, 14 sono rimaste ferite. La vita di quei ragazzi è cambiata radicalmente, è cambiata la loro vita a scuola e fuori dalla scuola. Hanno creato un'organizzazione che in qualche modo li tiene vivi, li tiene accesi, con la voglia di continuare a lottare, a ricordare i loro compagni che non ci sono più. E oggi la scuola è diventata quasi un fortino, e in questo episodio ce la raccontano perfettamente. La forza principale è il fatto che questi siano ragazzi di 16-17 anni, quasi 18, che da soli stanno mettendo su. E loro, cioè, sono veramente svegli, stanno cercando di non associarsi, non renderla troppo politica, anche se comunque tende a essere un discorso che ai democratici piace, ai repubblicani non piace, però cercano di comunque mantenerla molto al tenerla al di fuori della politica e mantenerlo proprio solo un discorso di controllare le armi, un po' avere qualche tipo di regolamento su queste armi, perché la maggior parte degli stati puoi tranquillamente prendere un'arma. Non ci dovrebbe essere motivo, non dovrebbe essere possibile per un ragazzo del genere che ha descritto lei avere un fucile, insomma. Penso che sia un po' anche incanalare questa paura, e incanalarlo e usarla come combustibile per mandare avanti questo movimento e usare questa rabbia, questa paura per andare avanti e cercare di portare, insomma, un discorso che duri nel tempo e porti cambiamenti. Adesso la scuola è diventata quasi un penitenziario. È più difficile entrare a scuola che passare la dogana in aeroporto. Hanno preso misure di sicurezza impressionanti. Ci sono 24 ore su 24, 4 pattuglie intorno alla scuola. Durante le ore scolastiche arrivano anche a 10. Hanno impiantato una piccola postazione rialzata della polizia al centro del prato. L'edificio dove è successa la sparatoria è completamente chiuso, in attesa di essere abbattuto. Ogni tanto girano gli elicotteri. Prima c'erano molti accessi alla scuola, ora li hanno chiusi tutti tranne uno, e ci hanno costretti a usare zainetti trasparenti per controllare cosa c'è dentro. Tutte le mattine dobbiamo per forza passare l'ID badge e attraversare una specie di porta scanner per entrare. È una scuola veramente enorme, è veramente bella, è proprio un campus, ma adesso è tutta barricata. La sicurezza è altissima al momento. Da una parte era assicurante, ma più che una scuola oggi sembra un carcere. Io amo la mia scuola e penso sia fantastica. Ci sono molti corsi extracurricolari, ci sono insegnanti fantastici che ci fanno fare un sacco di cose: musica, sport, recitazione, tecnologia, astronomia. È davvero una scuola speciale. Nonostante siamo in 3500 è facile trovarsi, riconoscersi. Ma ora sono garantite soltanto le lezioni standard. Molti edifici sono chiusi e non ci possiamo nemmeno avvicinare a certi spazi, dove prima invece ci incontravamo. Abbiamo cambiato le classi e anche parecchi insegnanti sono cambiati. Arrivano ancora un sacco di messaggi al 349-238-6666 via WhatsApp di persone che hanno vissuto un'esperienza come quella di Carla, moltissime riferite ai propri figli. Roberto da Correggio scrive: ho salvato mia figlia, aveva 7 anni, stava soffocando per via di un anello di totano. Ancora oggi, dopo 15 anni, ci ripenso. Se avete voglia di raccontarcele meglio queste storie, se avete voglia di condividerlo con noi, non solo in un messaggio, potete fare quello che chiediamo di fare tutti i giorni. Le storie lavorano in questo modo qua. Uno racconta una e quella storia arriva ad alcune delle persone che sono all'ascolto o che stanno guardando, in base a che tipo di storia è, e risveglia dentro di loro una memoria, in qualche modo riecheggia dentro di loro e tira fuori una vecchia storia che magari si erano dimenticati o invece magari ricordano tutti i giorni, come arrivano questi messaggi e ci raccontano. Vi dicevo, se avete voglia di formalizzarla un pochettino di più invece che non mandarci solo un messaggio di poche righe, ce lo scrivete a lineedombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo una puntata come quella di oggi, che si intitolava "Chi salva una vita salva il mondo intero". Vi abbiamo raccontato all'inizio la storia di Giulia, che molto gentilmente ci ha regalato la sua storia quotidiana di vita da quarantena a Codogno, tra chiacchiere con gli amici al telefono, passeggiate in campagna, giri in bicicletta. E poi vi abbiamo raccontato appunto la storia di una donna che salva la vita di un'altra donna al ristorante grazie ad una manovra di Heimlich, che abbiamo chiuso con la storia di Kaminski, il falsario. E dai, oggi sono salvario e falsario, il falsario che ha salvato centinaia di migliaia di vite. Voi ascoltatevela in podcast se volete questa puntata, se no torniamo domani. Ora la linea al GR e poi domani alle 15 per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!